24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Metti che uno 007 americano intercetti l'onorevole Razzi. Dimmi cosa capisce. Razzi, non so se l'avete visto, ha fatto un intervento in Senato sulla tratta, non so, ferroviaria, credo Roma-Pescara, dove non riusciva a dire la parola veicolare. Corridoio ferroviatico, adriatica, estrastregico, veicolare del traffico, vericola e comunque fatevi un po' i cazzi vostri americani. Vabbè, questo è Maurizio Crozza, sempre straordinario, quando sono le 6:32 minuti, cari ascoltatori, siamo qui, questa è 24 mattino. Sì, certo che se un americano veramente intercettasse l'onorevole Razzi, Antonio Razzi, ci sarebbe da divertirsi. Eccoci qui a 24 mattino, saluto Alessandro Longoni in redazione, saluto il nostro alpino Peter Bescapè in regia e siamo pronti per una nuova puntata, siamo qua fino alle 9. Sì, non ce la contro fino alle 3, Milan sei proprio un coglione. Ma è possibile che sei un pievago di lavori in radio? E il mondo va così. Vabbè, pazienza. Vabbè. 17 giorni, poi vado in fede, caro ascoltatore, tranquillo, tranquillo. Allora, voglio subito salutare la mia Paola Saluzzi, posso dire ma come mia? 17 giorni e vado in fede, caro ascoltatore, buongiorno a tutti. Ma insomma, ma qua la disperazione sta proprio nel fatto che sono 17 giorni, no, meritatissime. Tu te ne vado in fede, ma non esiste, no, ma non sta bene, ma assolutamente, ma chi ci sveglierà la mattina? Facciamo una petizione, tutti si sveglino, anzi vi chiamerò tutti i giorni alle 6, così per sapere se siete, ecco, svegli. Bravo, tu, bene, buongiorno! Buongiorno! Tu e Luca Dini, direttore di Vanity Fair, buongiorno direttore. Buongiorno, eccoci. Buongiorno. Va bene, se buongiorno, mi sveglio. Buongiorno super direttore, buongiorno, buongiorno. Ecco, buongiorno, già, Paola. Già super direttore. Ma è così, è così. Vabbè. Siamo tutti fuori dall'edicola, lo sai? Sì, c'è sì, la sì. Fila fuori dall'edicola, la fila, la fila. Direttore, dille qualcosa, insomma, ha quella sottile. È scoppiettante, è scoppiettante. Allora, quindi Paola Saluzzi verrà svegliata tutti i giorni dalle 6 da me, così. Tra l'altro devo fare una domanda. Bene, aspetta, prima apriamo il Parlamento, poi devo fare una domanda molto, molto intima a Paola Saluzzi. No, vabbè, calma, tranquillo, niente di niente. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Ancora questo. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Trozzate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Vabbè. Allora Paola Saluzzi, devo fare questa domanda che tutti penseranno: che ci facevi sveglia alle 3:10 di questa mattina, di questa notte? Che ci facevi sveglia? È vero. Sì, allora ho controllato su Twitter, ecco, non fatevi, ecco, strane idee. Noi siamo twitteroli, esatto. Noi siamo twitteroli, no, dice mi sveglio stamattina alle 3:10, Paola Saluzzi. Allora ho una gatta che si chiama Caterina, allora? Piccolina, non ha neanche fatto un anno, che ogni tanto si sveglia e viene a darmi dei bacini, oppure con le zampette, insomma, si fa viva. E mi ha svegliato alle 3 di stanotte, senza un motivo, per fare le fusa, così. Vabbè, e quindi mi sono svegliata, a quel punto ho detto, che faccio? Vado su Twitter e faccio saluti in generale. Saluti, vabbè. Salutiamo Caterina, Caterina, la gatta di Paola Saluzzi. Allora, io vorrei possibilmente, idealmente, dare un grandissimo abbraccio al ministro Anna Maria Cancelliere, un abbraccione gigante, colei che ha detto che in Italia non si riesce a fare nulla per le lobby, ce l'aveva in questo caso con gli avvocati. Non so se Luca Dini tu sei d'accordo, io vorrei idealmente proprio abbracciare e dire grazie ministro, non si fa nulla in Italia, c'è sempre una lobby, ci mettiamo di mezzo anche noi giornalisti, no? Come caste per fare qualcosa. E lei... la verità, in Parlamento sono, cioè, diciamo che metà sono giornalisti e metà sono avvocati e alcuni fanno entrambi i mestieri. Sì, è vero, anche due o tre. E quindi ha detto questa cosa, io sono contentissimo, finalmente qualcuno che lo dice in maniera chiara, cioè in Italia non si riesce a fare nulla, qualsiasi tipo di riforma ci si muovono subito quelle controforze, qualsiasi, dalla riforma della giustizia, alla riforma dei tribunali, alla riforma, non lo so, tu Paola non hai questa sensazione di un'Italia immobile, in assoluto? La cancellieri è una ragazza tosta, per passarmi il termine, dietro il suo doppio filo di perle, e ha detto una cosa che, di fronte alla quale prima o poi dovremo confrontarci, perché non è lesa maestà parlare così. Purtroppo a volte ci sono degli immobilismi, no? Quello che dovrebbe essere un tutore, l'equivalente del tutore che ti aiuta quando il ginocchio è fuori posto, sì, e che quindi talvolta, più delle volte insomma, è di sostegno e di aiuto per evitare che una categoria non esista o sia troppo sparpagliata, a volte finisce per essere troppo stretto e quindi finisce per non far camminare, insomma, ha detto una cosa sulla quale c'è da ragionare invece che da offendere. Sì, ma infatti, in generale per tutti, non si riesce a fare nulla. Poi vabbè, ha fatto quel fuori onda che voi di Sky l'avete mandato in onda, no? Brutti, sì. Farabutti, avete intercettato la cancellieri? Detta così, sì, avete intercettato la cancellieri. Sono quei quattro secondi nel quale il ministro, quando c'era una contestazione di avvocati, si è rivolta al procuratore che era a fianco in un convegno e ha detto, si sente poco, ma ha detto vado a fuori ad incontrarli così ce li leviamo di torno, più o meno. Ce li togliamo dai piedi, se sentite. Vabbè, direttore, forse è sbrigativa questa cosa, però il significato è, insomma, sono qui a protestare, vado lì, l'incontro ce li leviamo dai piedi, qui si sono subito scatenati, si dimetta, ecco, anche qui la reazione tipica italiana, sono dichiarazioni da paese illiberale, da paese, ma dai, su, ma non esageriamo, no? C'è l'arte della contestazione in Italia, o no? Sì, e poi c'è anche l'arte appunto della difesa corporativa che è fastidiosa. Tutte le volte che qualcuno, magari perché ha fatto qualcosa di sbagliato, viene messo in discussione, parte la difesa d'ufficio della categoria che dice bisogna rispettare la categoria, eccetera. Sì. Non si entra mai nel merito, c'è sempre la difesa di casta. Anche noi giornalisti, in questo siamo abbastanza maestri, devo dire. La difesa di casta, difendiamo... Tu Saluzzi, di che casta fai parte? Dei giornalisti, ovviamente. Sì, dei giornalisti, ma poi insomma dei gattari, ancora sti gattari, ma sei svegliata? È tutto lì, insomma, io per esempio di professione faccio la zia e quindi c'è la cassa degli zii, quando dicono voi zii, però che siete quelli che poi vicino i nipoti, cominciamo così, lo zio è un doppio genitore, vabbè. E scatta dappertutto. No, comunque l'Italia è un disastro da questo punto di vista. Sì, è tutto bloccato. Sì. Per esempio, non sono. No, ragazzi, la politica italiana è una disperazione in questi giorni, soprattutto. Non sono neanche riusciti a mettersi d'accordo per eleggere la pitonessa, vicepresidente della Camera, Daniela Santanchè. Adesso Saluzzi, tu che mi dici, cioè, che va bene, non è consona. No, il concetto è: noi tutti i giorni siamo lì che facciamo il tifo. Mettetevi d'accordo, perché tutto ciò è propedeutico a far funzionare un governo, sì, è propedeutico a far funzionare la Camera, sì. Mettetevi d'accordo. Sì, ma infatti, perché non c'è tempo, rischio di sembrare il coniglio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Allora io credo tempo, che tempo, davvero tempo. Su 100 persone credo che a 110 non freghi nulla della vicepresidenza della Camera, di chi mettono la vicepresidenza della Camera. Il problema, Luca Dini, è che non riescono neanche a mettersi d'accordo per la vicepresidenza della Camera. Cioè, ma dove vogliamo andare così? Una roba che non interessa a nessuno, eppure siamo qui, ne parlavamo settimana scorsa, credo anche, e siamo qui, forse Luca, tra una settimana saremo ancora qui a discutere della vicepresidenza della Camera. A chi andrà? Sì, soprattutto, oltre a non mettersi d'accordo, cioè, la cosa che trovo brutta è questo vizio di dire, diciamo, ufficialmente esprimere fare una dichiarazione di voto e poi sparare fuoco amico, fuoco nemico, insomma è veramente da bambini dell'asilo, questo è, cioè non c'è nemmeno il coraggio di dire apertamente non sono d'accordo, No, ma infatti, poi non solo la vicepresidenza della Camera, l'altra notizia del giorno è Renzi che dice basta, stanno facendo il tiro al piccione nei miei confronti, non sono mai stato tentato come adesso a non candidarmi. Ma anche qui, ma, cioè, con tutto l'affetto, ma chi, agli italiani che gli frega, cioè, di tutto questo balletto, di tutto questo chiacchiericcio della politica? Siamo al chiacchiericcio della politica. Guardate la pagina 2 e 3 di Repubblica, l'ho scritto su Twitter, lo giuro su tutto ciò che ho di più caro. La pagina 2 di Repubblica è questa: avanti con la riforma elettorale. Ma come avanti, Paola Saluzzi, come avanti? No, io da sono brava anni che si discute di Radio 24 mattino, ho seguito giorni e giorni, sì, e giorni e giorni e giorni e giorni e giorni di riforma elettorale. No, ricordiamo che è in corso la nona settimana decisiva, per la riforma elettorale. Ci sono, ci sono pure i saggi che si incontrano ogni lunedì. No, no, ma va benissimo, è giusto che ci siano i saggi, è giusto che ci siano tutti, ma fare, ma che non vuol dire fare come a mani basse senza ragionarci sopra, però fare, fare senza perdersi qualcosa in discorsi che sono lunghi, lunghi, lunghi, e la gente ha sempre meno voglia di sentire questi ragionamenti. Ma zero, sempre meno, proprio zero. Sempre, cioè, meno. Secondo me uno quando legge riforma elettorale, ma non è che gira, per ora gira pagina, tra poco inizierà a stracciare le pagine, perché non se ne può più. Comunque non è che tutti siano lì a girarsi i pollici. Sentite per esempio il senatore Cotti del Movimento 5 Stelle, che ha posto al Senato un problema... un problema urgente e grave. Io da alcuni decenni ho scelto di spostarmi con la bicicletta durante tutti i movimenti della mia giornata e uso la bicicletta anche per venire qui al Senato. Oggi, a differenza delle giornate precedenti, non sono riuscito a parcheggiarla praticamente in tutto il quartiere perché mi è stato impedito dalle forze di polizia, dei carabinieri, in tutti i posti anche dove la parcheggiavano i giorni precedenti, per cui ho avuto una mezz'ora di ritardo in aula e sono stato segnato come assente. Praticamente risulta impossibile utilizzare questo mezzo per venire qui al Senato e mi è stato addirittura impedito di portarmi la bicicletta nel mio ufficio. Non capisco perché ci sono senatori che si portano dei bauli nel proprio ufficio. La bicicletta, per motivi a me sempre inspiegabili, non è possibile portarsela dentro l'ufficio. Hai capito, mi sembra che ci sia Lucadini, cioè questo è un problema, no, che per carità, adesso lo so che mi prenderanno, mi attaccheranno quelli del Movimento 5 Stelle, ecco, critichi, ma si fa anche per sorridere, però è andato avanti 2 o 3 minuti a porre questa problematica. Non riesco a portare la bicicletta in ufficio, per esempio, c'è una discriminazione da alcuni decenni, sì. No, sì, da alcuni decenni usa la bici, non so, voce avrà 50 anni. Nei decenni precedenti invece usava... Sì, ma non riesce a parcheggiarla, ma come non riesce a parcheggiarla? Ma faccia l'emendamento Moser e non ne parliamo più, ma insomma, su via. Vabbè, no, ma adesso non è... Una cosa, sì, Alessandro, sì, cioè, sì. Se adesso questa cosa qua era un po' patetica, però insomma, se, come dicevi tu, se magari la seconda e la terza pagina dei quotidiani fossero dedicati a, ecco, per esempio a un dibattito serio della politica su come ci si sposta in Italia, su come ci si sposta nel traffico a Roma, nelle città, come rendere l'aria più vivibile. Insomma, queste sarebbero cose che interesserebbero, certo, non la riforma elettorale o meno la bicicletta dentro il Parlamento. No, però, insomma, no, anche perché sembrava un problema abbastanza personale questo, diciamo. Però invece la riforma elettorale, tu sei tutto, per esempio, direttore del Kangurum, che è la nuova... No, non hai sentito parlare, arriva il Kangurum. Arriva il Kangurum. Sì, ho chiuso a chiave la porta, ho paura. Pare arrivi Lucadini blindato. Oddio, arriva il Kangurum. Cos'è? Il coniglio gigante di Donnie Darko. No. Pare ci sia questa. Ci ispireremo alla riforma australiana. Tutti espertissimi, ecco, di riforma australiana. Paola Saluzzi ha fatto una laurea. Se è vero che Kangaroo che noi continuiamo a chiamare canguro, sì, dal kangaroo inglese, chiedo scusa, voglia dire in lingua locale, non lo so, perché questi continuavano a dire che cos'è questo coso che salta. Perfetto, gli indigeni rispondevano kangaroo e voleva dire non lo so, sono a posto. In realtà c'è tutto. Non sei laureata, ma mancano gli australiani. Ci mancano gli australiani, sì, dobbiamo. Grande rispetto per l'Australia, per carità. Grandissimo, noi siamo amicissimi dell'Australia. Paola Saluzzi è così, amica di tutti. Amicissimi. Ma sai com'è? La casa madre è anche in Australia. Chi non ha dei parenti in Australia? Tutti salutiamo gli australiani, soprattutto grandi italiani che sono là, una grandissima comunità. 24 mattino. Ascolta Milan, è arrivato un avviso bonario di Equitalia, 1850 euro da pagare, ho una grossa azienda e paghiamo tutto, sono andato ad Equitalia e la signora mi ha detto, beh guardi, lei incominci a pagare, dopodiché vedremo cosa fare, alla fine ovviamente non ho pagato e mi è arrivato un'ora prima della scadenza del primo pagamento il controllo fatto da Equitalia, no? Che tutto era ok. Io sto pensando ai poveracci che ogni giorno si trovano a dover combattere con questi signori, non è giusto, non è giusto. Ma mi chiedo che cosa fanno dire a sto Saccomanni, che stiamo uscendo dalla recessione con le misure che il governo ha adottato, ma qui l'ambulanza ci vuole veramente. Solitamente i politici che lei intervista mi danno i conati di vomito, non so come faccia lei a resistere, però ho condiviso quanto diceva la signora leghista di cui non ricordo il nome. La signora Chienge, secondo me, dovrebbe andare a pontificare in Congo, perché in Italia la signora è ospite e gli ospiti non comandano nelle case in cui sono ospitati. Caro Alex, un saluto affettuoso a Paola Saluzzi, dall'ultimo dei Panda, suo eterno ammiratore. Da strenuo viaggiatore della vita e dei continenti, dedico a Paola questi versi in castellano americano, lingua armoniosa che ne è degna cornice. Che bello es el día y que linda es la noche, al poter respirare il perfume della vita. Oír de ti, hablar de ti y soñar de ti, como sediento nel desierto a una fuente de agua fresca. Che bellas son las flores de tu inocencia en el camino. Che bello es ofrecerte a ti mi corazón. Este corazón que no está en mí, porque desde tiempo te pertenece a ti. Vabbè, Paola, qui siamo alle dichiarazioni. Siamo alle dichiarazioni d'amore. Ma io ringrazio, gentilissimo, in castigliano americano. Sì, si capiva, corazon. Che appartiene a te da tempo. No, ma infatti, cioè, è proprio. È frullato questo ascoltatore. Ma quanto siete carini voi due, che è innamorato, perso proprio, l'abbiamo perso. Io lo ringrazio, avere un uomo che ti dedica una poesia è già una cosa, già. È meglio che un kangurum, meglio di un kangurum, sì certo, sempre, è meglio di un kangurum, sempre meglio, sì, di, un meglio kangurum. Di un kangurum, decisamente meglio direi. Allora, prima di parlare di Vanity Fair, perché ho visto un articolo che mi ha già straziato, lo dico veramente seriamente, l'articolo d'apertura. Prima però sorridiamo ancora con Antonio Razzi, perché quello che abbiamo sentito in apertura di Maurizio Crozza, no? Razzi l'ha fatto veramente quell'intervento sulla veicolare, quello che... Velocizzazione del corridoio ferroviario adriatico. Sentitelo, Il corridoio ferroviario adriatico ammodernamento della linea Pescara-Roma. Premesso che il corridoio ferroviario adriatico ammodernamento della linea Pescara-Roma. Premesso che la velocizzazione del corridoio ferroviario adriatico costituisce opera strategica ed impegnativa per il governo italiano. Deve essere assicurata un'adeguata modernizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma. Non è infatti neanche pensabile che i due corridoi ferroviari Tirreno e Adriatico siano velocizzati. Mentre il possibile ammodernamento degli stessi corridoi abbia gli stessi corridoi abbia tempi di percorrenza oltre 5 ore. Lucadini, fammi un riassunto, ti prego, fammi un riassunto. No, faccio un appello al canguro, ma non per come parla. Prendi razzi e portalo agli antipodi. Sì, esatto. No, straordinario. Poi e poi non riuscivo a dire la parola veicolare, cioè quella veicolare ce l'abbiamo proprio quei 7 secondi in cui sei incartato, sentite, sulla parola. Niente, lo recuperiamo. Chiuso il pacchetto. Sì. No, ma c'è, lo sentiamo. Drastica riduzione del fenomeno di codesta nel traffico veicolare a Roma. Vabbè, succede. Allora, a parte di Vanity Fair la copertina, ma oggi la metto in secondo piano, pur essendo la copertina è Martina Stella, non voglio fare nessun commento. Allora, c'è un lungo servizio di apertura, Luca, che avete fatto, dedicato a tutti quei genitori che, soprattutto in America, ma è successo anche in Italia, hanno dimenticato i loro bambini nella macchina e quei bambini sono morti. Che non lo so, non ho una domanda da farti. Intanto, perché questa scelta? Ma è un articolo che avevo già letto tempo fa, è un articolo che ha vinto il Pulitzer negli Stati Uniti. Mi aveva colpito molto quando l'avevo letto, ho scelto di pubblicarlo adesso dopo quello che è successo, perché veramente entra nella, cioè, risponde alla domanda che a me ha dato molto fastidio, i commenti alla notizia recente, cioè quelli che dicono ma come si fa, non è possibile, in autore non pensare a tuo figlio, cioè, e fa capire che c'è una casistica. Le persone a cui succede sono spesso i genitori più attenti e più presenti, che un giorno per motivi che secondo me è soltanto la maledizione del destino, non so pensare ad altro. Cioè, sì, anche a me l'idea quello che mi ha dato fastidio anche quando abbiamo sentito l'intervista all'ultimo genitore, le è capitato, è quelli che dicono ah ma no, si vergogni, come ha fatto, esatto. Cioè giudicare, intanto è una tragedia per il bambino prima di tutto, che non c'è più, è una tragedia anche per questo genitore, se la porterà per tutta la vita. Cioè io non lo so, sono molto dubbioso in questo casi, parto dal non voler giudicare a priori, cioè ascoltiamo, vediamo, leggiamo, perché come si fa, Paola, a giudicare a uno da una cosa del genere, da un comportamento del genere? È chiaro che ha commesso un errore, come lo vogliamo chiamare? Sono gli istanti in cui bisognerebbe ascoltare e solo tacere, come fa un settimanale come quello diretto da Lucadini, che ascolta e racconta e sostanzialmente tace nel giudizio personale. Bisognerebbe ascoltare e tacere, perché un padre che corre alla disperata perché in quell'istante si ricorda che cosa sia accaduto è una persona che andrebbe tutelata dal silenzio, dal silenzio di tutto l'uditorio intorno. No, ma d'altronde questo articolo davvero è intensissimo. Puoi giudicare il ragazzino che fa la porcheria allo stadio, puoi giudicare tante altre cose, su queste cose un po' di silenzio. Insomma, sono le storie per esempio di Miles Harrison, 49 anni, che ha lasciato il figlio in macchina, sono fotografati, sono raccontati, si denudano anche nei loro sentimenti più profondi. È qualcosa davvero che leggerò appena finita la trasmissione. Io mi devo fermare qui. Vi ringrazio, Lucadini e Paola Saluzzi. Ci sono ancora 3 settimane se volete con noi. Il Kangurum aspetterà. E comunque, che dire? Diamo la linea al giornale radio e ci ritroviamo dopo per la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Quando sono le 7:15, eccoci ritrovati, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo di che cosa? Di questa Italia in cui, come ha detto il ministro Cancellieri, non si riesce a fare nulla Perché? Perché è tutto bloccato dalle lobby, dalle controlobby, i contropoteri. Le province sono lì. La riforma dei tribunali varata dal governo Monti, osteggiata. La riforma elettorale, non parliamone, questa finisce veramente in barzelletta, se no oggi mi arrabbio e spacco il microfono. E che cosa ancora? I costi standard, ve li ricordate, sulla sanità? Dimenticati. La spending review, a ogni governo si riparte da zero. E così via. Cioè, l'idea e la sensazione di un paese totalmente bloccato. Con noi ci saranno Sergio Rizzo del Corriere della Sera, ci sarà Michele Boldrin, leader di Fare per fermare il declino, e racconteremo anche con voi le vostre storie. 800 24 0024, il numero verde in questo momento non attivo, ma dalle 8 per voi, per raccontare l'Italia paralizzata, l'Italia del nulla, l'abbiamo chiamata così. E andiamo allora a scoprire cosa ci propongono i giornali in edicola questo mercoledì 3 luglio. I titoli, il Sole 24 Ore, beh, certifica nel titolo d'apertura uno dei problemi che affronteremo poi anche alle 8. Investimenti esteri, Italia ai margini. L'allarme di Confindustria: nel 2012 gli investimenti delle imprese estere in Italia sono crollati del 70%. Saccomanni sulla ripresa dice una luce in fondo al tunnel, mentre Squinzi, cioè il presidente di Confindustria, ridimensiona solo un lumicino. Per il Corriere della Sera, ecco il titolo d'apertura: l'accusa e l'affondo di Cancellieri, le lobby frenano le riforme. Poi c'è la politica per alcuni. Repubblica: Renzi, tiro al piccione contro di me. Mentre la Stampa: ripresa, sfida tra ministri, è il titolo anche del Fatto Quotidiano. Due ministri, l'Italia al crack, Grillo ora parli napolitano. I ministri sono Saccomanni, che ha detto la ripresa, e Zanonato, invece vicini al punto di non ritorno. Due dichiarazioni ieri da due ministri importanti, davvero in controtendenza. Il Messaggero: Conti ok, niente manovra bis. Libero: trainati dalle piccole e medie imprese, come sfruttare la ripresina. Il Giornale: la politica del rinvio. Eccolo, questo è un altro tema che affronteremo. False intese. L'Unità: Renzi attacca, congresso al via. Il Secolo XIX: Renzi al PD basta, tiro al piccione. Mentre Il Manifesto si concentra su quello che sta succedendo, e abbiamo sentito anche il GR24, davvero la situazione rischia di degenerare in Egitto, il giorno del giudizio, e anche Avvenire polveriera Egitto. D'altronde alle 17 credo di oggi scade l'ultimatum dei militari al presidente Morsi, ma già ci sono diversi morti, almeno 16 accertati. Allora, però, voglio partire da che cosa? Due articoli, qualche articolo che trovate che riguarda i conti, soldi. Ricordate la laurea del Trota? Renzo Bossi? Beh, secondo Repubblica, che è andata a spulciare nei verbali dell'ex tesoriere della Lega Belsito, sapete quanto è costata alla Lega, e in fondo possiamo dire anche un pochino a tutti noi, visto che sono soldi utilizzati, immagino, presi dal finanziamento pubblico ai partiti? 230.000 euro. Ma come 230.000? Ebbene sì, i verbali di Belsito: spesi 230.000 euro per comprare la laurea di Renzo Bossi. Pagina 6 di Repubblica, Marco Preve ed Emilio Randacio. Il sogno del senatur, dopo tutto, è stato quello di tanti buoni padri di famiglia: vedere l'amato figlio, il Trota, con una laurea in tasca. Per riuscirci sarebbe stato disposto a tutto, anche a sborsare 230.000 euro per permettere a Renzo di chiamarsi dottore. Peccato che per arrivarci il fondatore della Lega Nord, Bossi, abbia attinto a piene mani dalle tasche del suo partito, e che la laurea tanto agognata per il figlio sia arrivata solo dopo essersi letteralmente comprato 20 esami in economia aziendale da due facoltà private, prima a Tirana in Albania e poi a Londra. A svelare tutto questo è l'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito, arrestato dalla Procura di Milano il 23 aprile. grazie ai suoi avvocati. Durante la detenzione ha riempito 6 verbali. In uno di questi verbali ha svelato appunto le responsabilità della cosiddetta family, la famiglia Bossi. Secondo il suo racconto, Renzo, una volta sceso in politica, avrebbe tentato di darsi una parvenza di rispettabilità spacciandosi per esperto in economia internazionale. La laurea risale al 29 settembre 2010, un vero record, se si pensa che il diploma da privatista al liceo scientifico era arrivato solo nel luglio dell'anno prima, con 69 centesimi. E allora, così dice Belsito, per ottenere la laurea all'Università Crystal di Tirana abbiamo dovuto comprare 20 esami. Il problema però è nato così, che ci voleva, per rendere questo diploma spendibile, almeno in Padania, ironizza Repubblica, era necessario un ulteriore passaggio. E allora ci siamo rivolti a un'università privata londinese, dove dei 20 esami albanesi a Renzo ne sono stati riconosciuti solo 17. Fa capire Repubblica, insomma, che gli altri 3, anche questi, si è dovuto attingere al portafogli. Insomma, il risultato: 230.000 euro per la laurea di Renzo Bossi, così titola almeno Repubblica. A proposito di costi, Monti, lo sapete, nelle ultime elezioni, era diventata una notizia pubblica, aveva ingaggiato il guru di Obama, colui che aveva fatto vincere Obama, David Axelrod. Ha lavorato con Obama e anche con Clinton. La sua fattura è arrivata, le elezioni non sono andate benissimo, ma fa sapere Libero, con Paolo Emilio Russo e Francesco Specchia, a pagina 11, Monti, 350.000 euro al guru per perdere. Pagata la fattura dello spin doctor di Obama, David Axelrod gli consigliava di essere cattivo. Il simbolo Scelta Civica è costato 26.000 euro e invece la fattura 350.000 euro. Vabbè, pagato, tutto saldato, e immagino con i soldi raccolti da Scelta Civica. Questi sono stati i costi e questo è arrivato nelle tasche di David Axelrod, guru di Obama. Beh, c'è da dire che non ha portato benissimo, ma la fattura è arrivata comunque. Vabbè, prima della pubblicità voglio dare una notizia di quelle classiche da mani sul volante, cari ascoltatori, se state guidando, oppure tazzine del caffè bollente da appoggiare un attimo, e come al solito cornetti alla crema anche, perché sennò schiacciate dalla rabbia e poi si spreme tutta la crema dappertutto, è un disastro. Allora, dalla regione Sicilia, pagina 11 del Corriere della Sera, Felice Cavallaro lievita l'ufficio di presidenza, anche il Movimento 5 Stelle chiede più poltrone, questo è il titolo. Si è rischiato di sfiorare un imbarazzante primato ieri a Palazzo dei Normanni, la sfarzosa dimora di re e vice re di Sicilia, dal 1946 la sede di 90 deputati che al vertice dell'Assemblea regionale hanno sempre avuto un consiglio di presidenza composto da 9 membri. Da qualche mese però è stato portato a 12, ieri sul punto di raggiungere quota 14, ma forse il confronto con la Camera, dove i 630 inquilini di Montecitorio sono governati da un ufficio di presidenza composto solo da 18 deputati, ha fatto capire che era meglio soprassedere. Hanno dovuto farsi una ragione anche i 14 esponenti grillini, che pressano più di altri per ampliare la rosa, perché sono convinti di esercitare un sacrosanto diritto come uno dei gruppi più numerosi a invocare un loro rappresentante nell'ufficio dell'ufficio di presidenza. Per la verità, uno ce l'avevano di rappresentante, e è quell'Antonio Venturino, che però ha mollato Grillo, si è tenuto la ricca diaria di 8.000 euro al mese che la rete gli chiedeva di restituire. E allora, cosa dicono al Movimento 5 Stelle? Beh, ci vuole un nostro rappresentante nell'ufficio di presidenza, ma per fare così bisogna allargare! E quindi da 9 a 12 membri, forse saranno 14 su 90 deputati. Pensate, alla Camera dei Deputati nazionale sono solo 18 l'ufficio di presidenza per 630 deputati. A proposito, c'è il mistero, ma allora Josefa Idem, sempre per rimanere in tema Sicilia, come raccontava ieri Libero, è stata nominata presidente onorario della Consulta regionale femminile dello sport in Sicilia? Ieri Libero ha detto questo, Crocetta si è infuriato. Il rosario furioso, pagina 10 di Libero, retromarcia Crocetta, scarica la idem, incolpa i giornalisti, racconta Francesco Borgonovo, ieri è arrivato in ufficio furibondo, querelo tutti quei giornalacci che scrivono, che stanno scrivendo che ho intenzione di assegnare un incarico all'ex ministro idem. In realtà il mistero è questo, è presidente onorario della Consulta allo sport femminile della Regione Sicilia, l'incarico è stato dato dal CONI, non dalla Regione Sicilia, e quindi è un incarico peraltro non retribuito, per cui Crocetta dice querelo tutti quelli che dicono che sto dando un incarico a Josefa Idem. L'incarico è dato dal CONI, il dato di fatto è che l'incarico c'è, Crocetta dice io non l'ho dato, poi non è retribuito e insomma questa polemica può anche finire, sinceramente. Va bene, alle 7:26 minuti andiamo in pubblicità e meteo e poi ripartiamo da che cosa? L'Italia bloccata, l'Italia frenata dalle lobby, dice il ministro Cancellieri, il ministro della giustizia. E la disperazione, uso questa parola, della politica italiana, davvero non si sconfina dalla noia mortale alle notizie che adesso cominciano a suscitare anche un po' di fastidio, usiamo questa parola abbastanza edulcorata, fastidio, perché leggere paginate e paginate sul fatto che non si riesca a eleggere una vicepresidente della Camera o un vicepresidente della Camera, o che Renzi e il PD litighino sulle regole di un futuro futuribile, chissà, e primarie, elezioni del segretario del partito, beh, un pizzico di fastidio lo dà, cari ascoltatori. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Qua alle 7:33 minuti, saluto anche con un affettuoso abbraccio l'ascoltatore che mi ha mandato 5, 6, 7 messaggi uguali dicendo razza di servo idiota, lascia in pace la Lega Nord. Ma lasciamo in pace, in pacissima, ma chi la tocca? Caro ascoltatore, si tranquillizzi. Allora, a proposito di abbracci, io l'ho scritto su Twitter, sul mio profilo, Alino Milan, vorrei dare un immenso abbraccio sentito, commosso, davvero, vero, al ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri, che ha detto ieri quello che tutti pensano in Italia, cioè che l'Italia è bloccata perché ci sono delle lobby, in questo caso lei si riferiva probabilmente agli avvocati o comunque le lobby sul tema della giustizia, che frenano le riforme. In Italia è così, infatti sarà il tema che toccheremo alle 8:15, approfondiremo. Non si riesce a fare nulla, ma proprio nulla, per carità, anche la politica, soprattutto la politica ha le sue colpe, visto che non riescono manco a eleggere un vicepresidente alla Camera perché si dividono sul nome. Però ieri Anna Maria Cancellieri, a parte la gaffe in questo convegno, il microfono è intercettato durante una contestazione degli avvocati di Napoli, si è alzata e ha detto al suo vicino di convegno vado ad incontrarli così ce li leviamo dai piedi. A parte il modo molto spiccio, brutale, ma insomma c'era una contestazione in atto, il senso di quello che ha detto Anna Maria Cancellieri io lo sottoscrivo in pieno. Le lobby bloccano le riforme. Fa un'intervista anche al Messaggero, intervistata da Massimo Martinelli a pagina 9. Sono sotto gli occhi di tutti le lobby, l'esistenza di queste lobby è evidente, ogni cambiamento provoca reazioni molto forti quando non è gradito a tutti. C'è sempre qualcuno, dice il ministro, che ha delle rendite di posizione che va a perdere, quindi si oppone. Il cambiamento richiede coraggio, inventiva, mettersi in gioco, significa imparare a fare cose diverse da quelle che si facevano fino al giorno prima. E parlo di ogni tipo di cambiamento, a qualunque livello, di qualunque cosa si parli, c'è sempre qualcuno che lo contrasta, perché comunque ha delle rendite di posizione perse. Poi, naturalmente, chi non conta nulla perde e basta. Chi ha alle spalle eserciti armati riesce a difendere le proprie posizioni. Sulla giustizia, dice il ministro, il tunnel della giustizia richiede anni e anni di riforme molto serie. e so che tutto quello che stiamo facendo dà fastidio a qualcuno, molte volte sono piccoli interessi di bottega, quindi non vere e proprie lobby, ma piccoli campanilismi, magari giustificati. Penso al sindaco che si vede cancellare l'unica attività del suo comune, che è il tribunale. È chiaro che la difende, cerca di opporsi, può essere anche lecito, ma quello che manca e che è sempre mancato è capire come l'interesse generale debba essere così forte, così importante da predominare su tutto il resto. Ah, ragazzi, sembra acqua fresca, io le stamperei in oro zecchino parole del genere, per capire come in Italia non si fa nulla. Poi Anna Maria Cancellieri parla della giustizia, degli avvocati, dice una lobby, no, ma un incontro con loro a breve, sono sicura che troveremo un punto d'incontro, basta fare le cose giuste nel migliore dei modi. E vabbè, qui rientra un po' nella polemica con gli avvocati che erano già pronti, si sono scagliati, molti hanno chiesto anche le dimissioni. La gaffe della Cancellieri, avvocati, la grande lobby, così titola il giornale, che subito la mette in polemica. Ministro, lo dica, la vera casta sono i giudici, così il giornale in prima pagina, con un commento di Salvatore Tramontano, mentre il Corriere della Sera tratta la vicenda così: Cancellieri attacca campanilismi e lobby, la risposta critica delle camere penali, di che parla? E c'è anche un'intervista a Giulia Bongiorno, nota avvocato e anche politica, che ha fatto è stata anche presidente della Commissione Giustizia alla Camera. In parte ha ragione, ma sbaglia a scaricare i problemi. Giulia Bongiorno parla, intervistata da Fabrizio Caccia. Ho letto le dichiarazioni della Cancellieri, che devo dire, concordo col ministro sulla difficoltà dei problemi della giustizia in Italia, ma di sicuro già il labiale non era stata una buona partenza da parte sua. Il labiale catturato da Sky, li vado a incontrare, rivolto agli avvocati, così ce li togliamo dai piedi. Ecco, in futuro auspicherei un atteggiamento più benevolo nei confronti della categoria, così dice Giulia Bongiorno. Le grandi lobby, poi analizza, esistono in qualunque settore da sempre, anzi è scontato che ogni categoria, ogni corporazione abbia i suoi interessi, li tuteli, è normale che sia così, ma le leggi poi le fanno il Parlamento e il governo non può e non deve mai arrendersi, un ministro non può scaricare sulle lobby i problemi che incontra, occorre mediare, incontrare, ricercare compromessi, io l'ho vissuto sulla mia pelle e so cosa significa. Le lobby sono tante, dice Giulia Bongiorno, ci sono anche magistrati che si oppongono alla revisione delle circoscrizioni, ma non per questo bisogna fermarsi, non è necessario per forza ottenere il consenso di tutti e ricercare l'unanimità a tutti i costi. E certo, tutti dicono così, poi il risultato è che si fa davvero poco. Le lobby frenano la giustizia, questo è il titolo anche di Repubblica, che mette anche in ampio risalto la frase anti-avvocati che finisce in TV, li vedo e così me li tolgo dai piedi. Come detto prima, disperazione è il sostantivo che viene in mente se uno legge la politica di questi giorni. Fastidio anche un pochino, perché non se ne può più di leggere cose sui giornali che francamente non credo interessino più al più del 3% della popolazione italiana. Basta leggere per esempio pagina 2 o 3 di Repubblica, vi giuro che è un'apertura dedicata alla riforma elettorale, e il titolo di pagina 2 è così: avanti sulla legge elettorale. Avanti sulla legge elettorale. C'è anche un retroscena, firma Claudio Tito, uno sempre molto ben informato su quello che avviene nei rumors, nei retroscena, nei retrobottega, si potrebbe dire, dei palazzi. La spinta del Quirinale per cancellare il Porcellum. Non possiamo aspettare che decida la Consulta. Ecco perché questo è ciò che incombe in autunno. Sapete che la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sul ricorso di un avvocato, che è stato accolto, di una serie di avvocati, che hanno giudicato incostituzionale il Porcellum. E sarà così. Cioè la politica si ritroverà 3 giorni prima della Corte Costituzionale della decisione a non aver fatto nulla per cambiare questa riforma elettorale e dire: oddio, adesso la Corte Costituzionale interviene laddove non siamo intervenuti noi. Sì, ma da anni non siete intervenuti, e sarà così. Le mosse discrete di Palazzo Chigi e la paura del voto prima della riforma, in questo retroscena di Claudio Tito, possiamo permetterci di aspettare la sentenza della Corte Costituzionale? Questo è il ragionamento attribuito a Napolitano. No, il Porcellum va cambiato subito, subito, avete sentito italiani, magari con una legge elettorale transitoria, una clausola di salvaguardia che metta al riparo il sistema politico degli effetti distorsivi della maialata escogitata nel 2006 da Calderoli. Così Claudio Tito. Giorgio Napolitano torna a far sentire la sua voce coi leader politici. Insomma, va cambiata subito per evitare magari che si vada al voto in autunno, come si vocifera, come potrebbe essere, e nel frattempo ci ribecchiamo un'elezione con questo porcellum. Questa è la riforma elettorale. E poi che dire? Beh, l'elezione mancata di Daniela Santanchè a vicepresidente della Camera, la pitonessa, come ormai la chiamano tutti sui giornali, dopo che il Foglio ha lanciato questa idea, lei l'ha sdoganata in TV, dice: non mi chiamano la pitonessa, sono la pitonessa. Quindi la politica italiana, abbiamo il giaguaro, il caimano, la pitonessa, il piccione del tiro al piccione. Poi chi c'è? I falchi, le colombe, insomma un bello zoo. Questo è il dato di fatto. In ogni caso, rinviato il voto di Daniela Santanchè, il PDL però tiene duro, è la nostra candidata. Ieri Santanchè è andata ad Arcore da Berlusconi, Daniela furiosa vola ad Arcore nella retroscena di Sonia Oranges sul Messaggero a pagina 4, sono capaci solo di non decidere. C'è anche un retroscena interessante di Avvenire, Arturo Celletti, a pagina 7, sulla reazione di Silvio Berlusconi, il timore di Berlusconi, il PD non regge, a settembre può succedere di tutto, questo è il titolo. Racconta Avvenire uno sfogo privatissimo di Berlusconi, che avrebbe definito ingiustificabile arroganza lo sbarramento e il veto dei democratici sul nome di Daniela Santanchè. L'idea che il PD voglia scegliere anche il nostro candidato non mi va giù. Ho sempre detto e pensato che le riforme economiche e istituzionali sono ossigeno del paese. Per me Letta deve andare avanti, centrare l'obiettivo, deve togliere l'IMU sulla prima casa, aggiornare la Costituzione, poi serve l'elezione diretta del capo dello Stato e archiviare il bicameralismo. Questo è il ragionamento che avrebbe fatto Silvio Berlusconi a un retroscena con i suoi ieri. E poi però il timore, i democratici forse non reggono a settembre, dobbiamo essere pronti a affrontare ogni eventualità, già a settembre la tensione potrebbe salire, ogni scenario potrebbe essere concreto. In realtà il Corriere della Sera dice che invece il voto è più lontano. L'unica cosa che potrebbe far accelerare il voto, racconta il Corriere della Sera in un retroscena, e quindi ha ragione più ancora una volta di più Alberto Forchielli, che ce l'ha detto ieri qui, scrive il Corriere, e potrebbe essere la sentenza avversa a Mediaset per il risarcimento, maxi risarcimento da dare a De Benedetti. Quella potrebbe essere la vera molla, più che le questioni altre giudiziarie di Silvio Berlusconi, per spingere Silvio Berlusconi a dire: bisogna andare a votare. Avrà azzeccato il Forchielli, come diciamo spesso? Chi lo sa? Intanto invece c'è la vicenda di Renzi, appunto, il piccione, o meglio, quello che dice: non voglio il tiro al piccione. Renzi ha scritto un intervento sulla sua e-news, cioè su internet. Mai così forte la tentazione di non candidarmi alla segreteria, mai come oggi. Mi dicono tutti in privato: Matteo, stai buono, ti facciamo fare il candidato premier, stai buono che tocca a te. Insomma, mi dipingono come un bambino bizzoso a cui si promette la caramella se non piange. Signori, conosco il giochino, capi corrente romani prediligono lo sport del tiro al piccione, io sinceramente non ho voglia di fare il piccione. E tutti i giornali a raccontare, il Corriere per esempio in un retroscena pagina 6 della grande alleanza contro il sindaco, Bersaniani, D'Alemiani, giovani turchi, tutti per fare fronte comune, ecco perché Renzi, che ha la sua squadra, invece reagisce. Ora Matteo si sente accerchiato anche tra le mura della sua Firenze, un intero articolo di un'intera pagina di Michele Brambilla, viaggio nella città stupita dal testa a testa tra il sindaco cattolico e il cardinal Betori. Insomma, contro di me tiro al piccione, al titolo di Libero, è l'apertura del secolo XIX, batterò i capi bastone. Questa è la politica italiana. Un disastro. Il Movimento 5 Stelle invece domani farà Restitution Day. L'unico articolo interessante è l'intervista al ragioniere di Tarquinia Danilo Puliani, 41 anni, intervistato da Simone Canettieri sul Messaggero, e lo trovate a pagina 6, il ragioniere che fa le pulci ai conti 5 Stelle. Mi chiamano tutti gli eletti, mi chiamano pure di notte, io sono un grillino della prima ora e controllo tutte le buste paga. Domani faremo Restitution Day, cioè restituiremo la diaria. La cifra precisa sarà circa 1 milione, ma verrà divulgata domani. Ecco, questa è l'unica intervista interessante. Parla il ragioniere che controlla tutti i conti di quelli del Movimento 5 Stelle. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Evviva! Alle 7:46 minuti Merkel, Angela Merkel, è intervistata da 6 quotidiani, per la verità, sì, 6 quotidiani internazionali, tra questi La Stampa, quotidiano italiano, Francesca Sforza, l'intervista pagina 2-3, Merkel sul lavoro, i giovani devono essere più mobili, più mobilità dei giovani, più flessibilità per tutti, l'Europa ha bisogno di un mercato del lavoro davvero competitivo. Sono troppe, per esempio, 28 regolamentazioni nazionali per fondare un'impresa, parla a livello generale. Sull'austerità, programmi di investimenti e necessità di proseguire sulla strada del risparmio vanno di pari passo, i deficit in Europa si sono quasi dimezzati, adesso non dobbiamo spazientirci. E riguardo alla crisi, la gente, dice Angela Merkel, sa molto bene cosa non ha funzionato nel passato, chi aveva i capitali è rimasto al riparo, trovo deplorevole la condotta di molte elite economiche, visto che a pagare sono stati giovani e poveri. Comunque è un'intera... Sono due pagine molto intense di Angela Merkel, che parla ovviamente nel giorno del vertice oggi a Berlino sul tema della disoccupazione. Parla di tutti i vari temi legati al lavoro, alla ripresa, all'austerità, all'economia, alla finanza europea, e quindi vi consiglio questa intervista di Angela Merkel, la pagina 2-3 della Stampa. Per quel che riguarda l'economia italiana, beh, ieri si è assistito a questo... questa strana doppia dichiarazione di due ministri importanti, tra i più importanti nel campo economico, i più importanti. Il ministro dell'economia Saccomanni, che ha detto l'altro ieri, per la verità era ribadito, la ripresa si vede, c'è una luce in fondo al tunnel, subito rintuzzato dal presidente di Confindustria Squinzi, che dice è solo un lumicino. E invece dall'altra parte Zanonato, ministro dello sviluppo economico, ha detto siamo a un punto di non ritorno. Allora, qui c'è qualcosa che non va, almeno nelle dichiarazioni pubbliche. Il dato di fatto certificato dal Sole 24 Ore e dall'allarme di Confindustria sugli investimenti esteri è il dato che più preoccupa. Nel 2012 sono crollati del 70%. 70%. La burocrazia ferma tantissimo, forse l'idea, appunto, come si diceva e come approfondiremo, di un paese in cui non si fa nulla, non si risolve nulla, non c'è una riforma neanche a pagarla a peso d'oro. Napolitano ieri ha ribadito gli investimenti esteri sono cruciali, come racconta Nicoletta Picchio a pagina 3 del Sole 24 Ore. Per uscire dalla crisi bisogna attrarre investimenti stranieri, l'afflusso di investimenti esteri è cruciale per dare uno stimolo innovativo alla ripresa produttiva, all'occupazione. Questo è il messaggio del presidente di Confindustria alla platea dell'auditorium di Confindustria, dove un centinaio di manager di multinazionali, ambasciatori, ministri e i vertici dell'organizzazione Confindustriale discutevano su questo tema. Anche il Fatto Quotidiano certifica a pagina 3 con Marco Palombi l'industria distrutta, i numeri di un tracollo, perso il 15% della base produttiva, 55.000 aziende, 539.000 posti, un quarto della produzione, dal 2008 il PIL giù dell'8,6%, tutti dati impietosi, dati molto duri. Che poi uno dice, ma sono dati, numeri, ma poi sono cose concrete. Guardate e leggete, per esempio, cosa racconta l'Unità, pagina 12, una storia davvero emblematica di un imprenditore di cui anch'io in passato mi sono occupato, Nino De Masi, è un imprenditore che da 40 anni combatte contro la 'ndrangheta. Fallisce Nino De Masi, imprenditore calabrese che aveva denunciato i boss dal 2006. in virtù di 14 sentenze a suo favore, aspetta i fondi anti-usura che non gli sono mai arrivati. Per questo ha annunciato: non ce la faccio più, devo lasciare a casa 100 dipendenti. Gianluca Ursini racconta questa storia, questo spaccato di Italia. Nino De Masi, uno la cui storia imprenditoriale fosse avvenuta in Emilia, avrebbe fatto il giro del mondo. Invece suo padre, geniale analfabeta contadino, in seguito inventore di trattori e macchine agricole, e Nino, il successore nelle 5 aziende di famiglia, sono nati nella parte sbagliata d'Italia. Resistono in un territorio durissimo, Rizziconi, 12 chilometri da Rosarno, provincia di Reggio Calabria. Hanno 5 capannoni, 3 stabilimenti. Hanno denunciato da sempre le pressioni mafiose. Portano avanti coraggiose battaglie contro il tasso di interesse usurario applicato da 3 dei 5 maggiori istituti bancari contro le imprese meridionali, ma hanno annunciato ora con lettera ufficiale ai media e sindacati che dal 10 luglio chiudono 2 dei 5 comparti industriali, lasciando a casa 100 operai. Ho l'ultima sentenza del TAR calabrese del 20 giugno, la 14ª, che riconosce per l'ennesima volta un diritto che mi spetta dal 2006, accedere ai fondi anti-usura. Cosa devo aspettare oltre? Ho avuto perfino il commissario regionale anti-racket contro. Questo è il dato di fatto. Nino De Masi ora deve chiudere perché ha denunciato anche quelle che secondo lui sono tassi usurari delle banche. Non contiamo invece le pressioni dell'Andrangheta. Allora, queste sono le cose concrete. A che ora devo chiudere? Tra un minuto e mezzo? Sì. E allora sono pronto a leggere, oggi è stata una bella battaglia, l'articolo più inutile scovato sulle pagine dei giornali, il premio La Carta Costa, oggi va al Quotidiano Nazionale, Il Giorno, l'edizione del Nord. Scommesse, depistaggi, souvenir a Londra e febbre da Royal Baby. Una intera pagina, cari amici del Giorno, con quello che la carta costa. Pagina 19, mossa anti-paparazzi, Kate potrebbe aver barato sulla data di nascita. Allora, tutti in attesa, la data dovrebbe essere il 13 luglio, ma se Kate ha usato la stessa tattica di Diana, il nuovo erede potrebbe nascere anche una decina di giorni prima. Forse vi ha fregato, ci ha fregato tutti! Ci ha fregati tutti, forse, Kate. Secondo i tabloid inglesi, la stanza costerà 10.000 sterline. Sappiate che Kate ha una TV satellitare, un frigo con tanto di champagne e lista di vini. Ma per il dopo voglio immaginare lo champagne, adesso non è ancora partorito Kate. E poi l'ala lindo del St. Mary Hospital, la stessa dove è nato nel 1982 William. L'ala è stata rinnovata e riaperta l'anno scorso e i bookmakers danno tra i nomi più gettonati Alexandra e Charlotte, mentre Diana non è tra i favoriti. Cari amici del Quotidiano Nazionale, la carta costa un'intera pagina questa notizia, ma non si può fare. Però avete vinto un bel premio oggi. 24 mattino. Sono le 8:16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci qui a parlare, approfondire il nostro tema a partire da quello che ieri il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri ha detto, uno sfogo. Sentite bene le parole usate da Anna Maria Cancellieri sull'Italia che fatica a essere un paese normale. Quando fai qualcosa c'è sempre qualcuno che si dice che potevi farlo meglio. Le grandi lobby che ci sono nel nostro paese e quindi tutto il nostro paese vive con lobby che impediscono che questo diventi un paese normale. Io credo che se noi saremo capaci di fare delle cose fatte molto bene, di altissimo livello, guardi, alla fine dovranno cedere. Noi dovremo dimostrare con i fatti che questo è un paese che ha le energie per diventare un paese normale. Cioè, avete capito bene? Dobbiamo dimostrare alle lobby che noi possiamo diventare un paese normale, normale come tutti gli altri. Io vorrei quasi, mi è venuto l'istinto ieri sentendo queste parole di abbracciare il ministro Cancellieri, potessi, per solidarietà, perché ha detto una cosa verissima. Oddio, non è che la politica sia immune da colpe, primo perché le lobby sono ben rappresentate, benissimo rappresentate nel nostro Parlamento, le lobby a cui magari faceva riferimento lo stesso ministro Cancellieri, e poi la politica, cioè vogliamo parlare del fatto che non si riescono neanche a mettere d'accordo per votare una vicepresidente della Camera, qualunque sia il nome. nome perché il nome non piace. Cioè, ci rendiamo conto, una cosa che non interessa a nessuno, che non cambia di una virgola il ruolo di un paese nel mondo, la vicepresidenza di una Camera, non si riescono a mettere d'accordo su questo. Ma il problema è che l'Italia è immobile in tutto. Le province sono lì, la riforma dei tribunali per chiudere qualche tribunalino, per carità, non si tocchino. La spending review, cioè tagliare poi, vuol dire parte degli 800 e rotti miliardi di spesa pubblica? Boh, bisogna fare commissioni e controcommissioni. Gli F-35 si comprano? Boh, non si comprano, vedremo. L'IVA aumenta? Boh, non si sa, vedremo in autunno. Lo spesometro, doveva entrare ieri in vigore lo spesometro? No, rinviato al 12 novembre. Cioè si vive così. E i costi standard, per evitare che una siringa costi un euro in un'ASL in una regione e 5 euro in un'altra regione, ma che costi in un costo medio, boh, chissà, si vedrà, lo faremo. Viviamo improvvisati alla giornata, qualsiasi cosa si vuol fare, si blocca tutto. Di questo vogliamo discutere. 800 24 00 24, con noi ci sono Sergio Rizzo, che saluto, del Corriere della Sera. Buongiorno Sergio. E voglio salutare Michele Boldrin, che è il coordinatore nazionale di Fare per fermare il declino. Buongiorno e ben ritrovato, professore. Buongiorno. Allora, Sergio Rizzo, ha ragione la Cancellieri oppure dovrebbe guardare più in casa sua, nel senso della casa della politica? Allora, intanto la Cancellieri non è una politica nel senso stretto, no? Questo lo sappiamo. Sì, certo. Quindi, diciamo, parlare di cioè equiparare la Cancellieri, diciamo, alla politica tradizionale è un po' una forzatura, direi. Si potrebbe dire che tra le lobby ci sono anche le lobby dei burocrati pubblici, e quindi in parte, diciamo, lei stessa in qualche modo fa parte di una di quelle lobby che spesso e volentieri si sono opposte, perché lei è un prefetto, no? Se non sbaglio, no? Sì, certo, e quante volte abbiamo assistito, tutte le volte che bisogna tagliare qualche prefettura, no? Perché anche quello c'è, cioè, poi alla fine. Ma sai, un paese nel quale si è istituzionalizzata una legge che si chiama mille proroghe, no? Cioè, già questo soltanto fa capire in che situazione siamo, cioè noi ogni anno dobbiamo fare un provvedimento per prorogare delle scadenze che non siamo riusciti a rispettare, ma centinaia di scadenze. Cioè lo Stato fa delle leggi già sapendo di non, diciamo, prevedendo delle scadenze, già sapendo che quelle scadenze non potranno essere rispettate. Ecco, soltanto da questo si capisce in che paese siamo. Questo è un paese nel quale è facilissimo costruire un pezzetto di burocrazia, una società partecipata di un ente locale, che ne so, di una commissione per l'appunto, dopodiché quando si tratta di smontarlo, allora lì ci sono i problemi, no? E noi gli 800 miliardi di spesa pubblica li abbiamo fatti in questo modo, cioè li abbiamo fatti mettendo briciole su briciole, costruendo province, consorzi di bonifica, società partecipata dalle regioni stesse, consigli regionali, consigli provinciali, consigli comunali, e alla fine noi ci troviamo con una montagna di burocrazia, di spesa improduttiva che non riusciamo a smontare, no? Bisognerebbe invece che la politica si assumesse finalmente delle responsabilità, prendendo decisioni anche impopolari, ma anche forzando la normativa, non so come dire, no? Però fare le cose, però come tu dici giustamente anche Anna Maria Cancellieri, che è un prefetto, quando si parlava di cancellare le prefetture, e lì c'è la lobby, che ne so, dei prefetti, evidentemente. No, perché poi la politica non fa nulla, dicono. Non è vero. Ieri 21:59, spaccio dell'ANSA, l'ANSA dà questa notizia: la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha dato il via libera al disegno di legge che istituisce il comitato che si occuperà delle riforme costituzionali. Ecco, questa, ma per carità, non vogliamo dire che non ci debbano essere le procedure, però la sensazione è che tutto sia talmente imbrigliato, e su questo vorrei andare a Michele Boldrin, tutto talmente imbrigliato che effetto le fa sentire Anna Maria Cancellieri? Faccio anche lei la stessa domanda, Boldrin. Ma cosa vuole? È perfettamente vero, però mi sembra che si salta sempre il punto fondamentale. Guarda, faccio osservare subito una cosa nell'intervento di Rizzo, che ha perfettamente ragione. Se pensa ai vari esempi che ha usato, hanno tutti a che fare con lo Stato e l'apparato pubblico. Se noi provassimo a fare lo stesso ragionamento, a sollevare le stesse critiche per il settore privato, non ci riusciremmo. Perché in realtà invece lì le cose cambiano, la gente si adatta, anche a volte rapidissimamente. a volte ancora più rapidamente che altrove, perché siccome devono sopravvivere in un ambiente in cui lo Stato non funziona, allora devono andare due volte più forte. Quindi la prima osservazione è che questa affermazione non vale per il paese, vale per tutto ciò che ha a che fare con Stato, politica, regolamentazione, intervento dello Stato, potere della politica. Mm. Lei la pone così, questa diciamo, pubblico versus privato. No, ma non la pongo così. Io le chiedo, provi a fare un esempio nel settore privato di incapacità di adattarsi ai cambiamenti, di rifiuto continuo a cambiare. Ma è chiaro che la burocrazia è uguale al settore pubblico, voglio dire. No, è vero, la burocrazia si interna, c'è una grande impresa, ma insomma non importa. Il punto è che il grosso del problema è lo Stato italiano, il vero mostro è quella cosa lì che non cambia. La seconda cosa è il notare che alla fine la macchina dello Stato non è che funziona a casa, funziona perché esiste un gruppo di esseri umani, non lo so, diciamo 10.000 persone, in realtà sono molto meno, includono i prefetti, i viceprefetti, arrivano i direttori generali, che questa macchina gestisce. Guardi, ero a pranzo due giorni fa lì a Milano con un caro amico che è un noto civilista italiano, anzi molto molto noto, e lui mi diceva, guarda, io stesso non riesco a leggere ormai le legislazioni italiane, non riesco a capirla, perché scritta in una maniera tale, con rinvii a articoli precedenti, nella terza capoverso si sostituisce la parola tale con la parola tale, che diventa impossibile capire il contenuto senza essere un super esperto di quel particolare ramo legislativo. Perché le faccio questo ragionamento? Le faccio questo ragionamento perché mille volte i piccoli tentativi di cambiamento si scontrano con delle finte impossibilità tecniche. E allora bisognerebbe porsi il problema di individuare da dove cominciare, e la cosa da dove cominciare è nel far saltare, nel cambiare il funzionamento dello Stato centrale italiano. Lo Stato. Sergio Rizzo, che ne pensi di questa visione? Dice Boldrin, è il tutto quello, gli esempi che tu hai citato riguardano effettivamente tutto ciò che è l'apparato del pubblico, tutto ciò non si può applicare nel privato, dove invece anzi le dinamiche sono molto più veloci, ci si adatta anzi per cercare di contrastare questo immobilismo dello Stato. Vabbè, la considerazione sul privato è una considerazione diciamo giusta, perché è chiaro che se uno una fabbrica produce dei prodotti che deve vendere, non è che poi può diciamo seguire delle procedure, cioè non può andare a altare al Consiglio di Stato, ecco, no, cioè, insomma deve sottostare alle regole di mercato, e quindi è chiaro che non c'è quella morsa burocratica che c'è nel pubblico, e il problema è che il pubblico poi è stritto anche il privato, quello è il fatto, cioè, mi viene in mente a proposito delle leggi che citava molto opportunamente Boldrin, mi vengono in mente due immagini. La prima è Calderoli con lanciafiamme che brucia 350.000 leggi inutili nel cortile di una caserma dei vigili del fuoco, forse come no, un'immagine storica è rimasta. Sì, certo. La seconda scena è un giorno del 2009 quando compare in un provvedimento una legge voluta sempre da Calderoli che dice che le leggi devono essere scritte in modo semplice, no? Ecco, da allora io non ho mai visto applicata questa legge, cioè l'assurdo di questo sistema è che perfino quando si vuole semplificare si riesce a complicare. Allora c'è uno studio della Confartigianato molto recente che sostiene come negli ultimi 5 anni siano state approvate 491 norme di natura fiscale. Di queste 491 norme, 67 erano diciamo tese a semplificare il sistema, ma ben 288 a complicarlo. Quindi è un saldo negativo, diciamo. Sì. Un saldo negativo più 100 errotti a favore delle complicazioni, mettiamola così. Ma tra l'altro, Sergio Rizzo, per andare nel concreto in alcune cose, mi ha colpito ieri quando si parlava di spending review, no? Questo termine roboante, che poi vuol dire tagliare, fare un po' di tagli degli 800 miliardi della spesa pubblica italiana. Sbaglio o siamo tornati? Cioè c'era un commissario, il commissario Bondi all'epoca di Monti, siamo tornati pare indietro, cioè Saccomanni che dice bisogna adesso fare una commissione, nominare il perché sempre così? Cioè, non era tutto avviato dal governo precedente? Ma perché? ma perché quello che dicevo prima, cioè non c'è nessuno poi che alla fine che prende le decisioni, cioè non è che non si sappia dove tagliare, si sa perfettamente dove tagliare, ci sono i documenti online del ministro Giarda, basta leggere quelli per capire dove bisogna tagliare, cioè non è che ci voglia, ma il punto è che, come dicevo prima, è tutto talmente complicato, perché poi vai a tagliare una certa spesa, scattano sui sindacati, c'è il ricorso al TAR, poi al Consiglio di Stato che va avanti 10 anni, e che ne so, c'è un contratto da rispettare, il contratto non si può rescindere, oppure il contratto si può rescindere, però c'è quello che ha avuto il contratto rescisso che va al TAR o al Consiglio di Stato. Cioè è un sistema talmente... È la famosa Italia bloccata che dice la cancelliera, sì, qualsiasi cosa fai c'è uno che ti contesta. Ma non c'è dubbio. Io ricordo sempre quando il ministro Patroni Griffi disse, quando è un paese, questo l'Italia, in cui se tu fissi un limite per partecipare a un concorso di 25 anni ci sarà sempre quello che ha 24 anni, 11 mesi e 29 giorni che protesta. E purtroppo è così. Boldrin, visto che glielo faccio diretto, secondo lei quanta percentuale di dipendenti pubblici in Italia è di troppo? Ma non lo so, il 10%, forse il 15%. L'altra cosa paradossale dell'Italia è che non è che i dipendenti pubblici italiani siano straordinariamente di più che in altri paesi, sono straordinariamente poco efficienti, questo sì, producono straordinariamente pochi servizi per il paese, visto quello che costano. Ma vorrei ritornare a un'osservazione che ha fatto sia tutti e tre, lei, Rizzo e anche la cancelliera in realtà, e cioè che tutti sanno quello che bisognerebbe fare, però non lo facciamo. Guardi, mi piace perché l'intuizione su cui un anno fa abbiamo provato a lanciare questa cosa che poi ha creato fermare il declino, eccetera, eccetera, e cioè che le cose da fare sono abbastanza chiare a tutti gli italiani, però ci sono due meccanismi. Uno, e questo sia culturale, è cominciamo da te, ossia vai avanti a te, è chiaro. Che a me viene da ridere. E l'altro è che abbiamo una classe politica, un apparato burocratico che su questa motto, questo ridicolo motto suicida, ha costruito il proprio potere, e che quindi se l'Italia vuole provare a cambiare deve riuscire a esprimere una qualche forma di dirigenza politica completamente nuova, che riesca a essere immune da questo connubio con quelle che lei ha chiamato le lobby, che poi alla fine sono alcune ben determinate e sì, molto precise, e abbia quindi la capacità di far saltare i cardini fondamentali del sistema. Qui purtroppo abbiamo avuto la grandissima delusione, al di là dei fallimenti nostri, di fare. Devo dire che il Movimento 5 Stelle, che se lei ci pensa è un po' un'espressione di questa rabbia popolare, se sì, guarda le proposte, le discussioni, c'è proprio l'elenco di queste assurdità che stiamo qui discutendo. Ci sono anche cose strane, però fondamentalmente c'è una reazione popolare che dice no, non può essere così, questa cosa bisogna cambiarla. Eppure da una rabbia del genere, se non si riesce a articolarla, se non si riesce a avere un progetto, si riesce a raccogliere 10 milioni di voti, a mandare centinaia, ma non si concretizza, e non si fanno, non si concretizza. Lei e dice rimane la parte tragica, rimane una rabbia fino a se stessa. Ma forse quello che dicono molti è che perché poi il sistema, in questo caso il sistema delle larghe intese, è più forte per bloccare questo tipo di rabbia che si possa concretizzare. In ogni caso, tra 5 minuti ripartiamo con Sergio Rizzo e Michele Boldrin. Ci sarà e ci raggiungerà anche il rappresentante, giusto per capire come l'Italia non cambia, di uno dei tanti comitati, in questo caso è Salva il tuo tribunale del comitato di Chiavari, vuole evitare la chiusura prevista dalla riforma del scorso governo, per cercare di capire, insomma, ecco un esempio in cui si è cercato di fare una riforma che poi non viene applicata, anzi viene osteggiata in maniera molto chiara, in maniera bipartisan da tutti i partiti all'interno del Parlamento, e non si riescono a chiudere questi tribunali per una riforma che si vuole fare. Tra poco 800 24 00 24, che ne pensate della vicenda di quello che ha detto Anna Maria Cancellieri? Ripartiamo tra poco. 24 mattino. Alle 8:37 minuti, sembra proprio di vivere in un paese in cui non succede nulla, o se succede qualcosa c'è una controcosa che frena la prima cosa. Un paese in cui se il ministro Saccomanni dice ci intravediamo la ripresa, lo stesso giorno il ministro Zanonato dello stesso governo dice siamo a un punto di non ritorno. In un paese in cui ieri si è aperta una seduta alla Corte Costituzionale in cui le province, o meglio le regioni per conto delle province, ricorrono contro l'abolizione delle province, contro la riforma che accorpa le province, sapete chi patrocina i ricorrenti? Tre dei 35 saggi, cioè tre professori di diritto costituzionale difendono le ragioni di regioni e province. A lunedì si incontrano con i saggi e fanno il comitato in cui bisogna riformare lo Stato e tra l'altro cancellare le province. Al martedì vanno alla Corte Costituzionale e difendono le province stesse. Ma per carità, è tutto legittimo dal punto di vista costituzionale, e lo chiedo a Sergio Rizzo del Corriere della Sera, però insomma dal senso che no, che è veramente tutto un impazzimento in questo paese. Beh, c'è un po' una contraddizione, direi, no? Sì, una contraddizione. Tra l'altro Sergio ci scrive su Twitter, Pompeo Savarino, che è presidente dell'Associazione Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, ci dice: siamo diventati una lobby, vorrei sapere quali interessi tuteliamo. Noi sicuramente gli interessi della collettività. Ed è vero, aggiunge, tu dici, ma i tagli mirati si possono fare, ma sono scelte della politica. Perché sbotti sul... Ma è sempre così, no? Cioè, sono sempre scelte di qualcun altro. Che ne so... io l'altro giorno ho raccontato la vicenda di questa società che ha il tesoro per tenere sotto controllo le partecipazioni, no? Cioè è una società per azioni dentro il tesoro che serve soltanto a tenere sotto controllo chi sono nei consigli di amministrazione, le quote azionarie, eccetera. Una specie di, non so neanche che funziona, diciamo, come si può definire, monitoraggio delle partecipazioni pubbliche. Ma perché bisogna fare una società per questo? E qui non è che la politica dovrebbe prendere in mano, cioè, questa società dovrebbe secondo me essere chiusa oggi pomeriggio, no? Ma come si chiama? Anche perché costa 2 milioni l'anno, costa 2 milioni l'anno, questo nel bilancio, e ho scoperto anche che hanno qualcosa come 3 milioni di euro depositati in banca e investiti in botto, un CCT. Quello che società è? Come si chiama? Si chiama SICOT. SICOT. Ecco, ma perché? Questa è una cosa che il ministro del tesoro domani, o il, che so, il direttore generale del tesoro domani, anzi oggi pomeriggio, la chiude. No, secondo me si risparmiano 2 milioni. Si risparmiano 2 milioni, sì. Voglio dire, queste cose, quando dicono sempre che le responsabilità della politica... Oppure la politica dice responsabilità della burocrazia, perché c'è sempre un gioco delle parti, poi alla fine, no? Ci si regge a vicenda, come i due, tra virgolette, l'immagine, i due zoppi che si appoggiano spalla contro spalla per camminare dritti. Insieme a Michele Boldrin, fatemi salutare Gabriele Trossarello, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei è sindaco al comune di Moconesi, è giusto? Esattamente. Che si trova in provincia di? Provincia di Genova, un piccolo comune. Presidente del comitato Salva il tuo tribunale di Chiavari, voi avete anche dormito dentro il tribunale che poi in realtà non è mai nato, sul quale lo Stato ha speso quanti soldi di questo tribunale? Per l'esattezza 14,2 milioni di euro. Per un tribunale che forse mai nascerà, cioè meglio la riforma del ministro del precedente governo Monti lo vuole cancellare e chiudere ancora prima che nasca di fatto. Esattamente. Perché avete dormito addirittura dentro il tribunale? Ma diciamo che dovevamo portare un po' all'attenzione nazionale quello che è una problematica particolare proprio del Tribunale di Chiavari, cioè lo Stato aveva deciso alcuni anni fa di spendere tanti soldi per evitare di fare altre spese che erano quelle degli affitti. A questo punto cancellandolo verrebbero sperperati questi 14,2 milioni di euro e teniamo conto che una riforma che prevede un risparmio totale per tutta Italia nel 2013 di 17 milioni di euro, quindi i conti della serva sono 17 meno 14,2 solamente considerando Chiavari. Ci siamo un po' preoccupati per questi soldi pubblici, diciamo la verità. Vi siete preoccupati. Senta, sai cosa dice oggi il ministro Cancellieri intervistato al Messaggero? Dice: io capisco i piccoli campanilismi, magari giustificati, penso al sindaco che si vede cancellare l'unica attività del suo comune che è il tribunale. È chiaro che la difende, cerca di opporsi, può essere lecito, ma quello che è sempre mancato e capire come l'interesse generale debba prevalere, predominare su tutto il resto. Certo. Cioè lei condivide quello che la Cancellieri dice, cioè qua non si riesce a fare nulla, c'è sempre un comitato che protesta per qualcosa. Guardi, sembra strano, lo condivido anche appieno quello che dice la Cancellieri, e glielo dico anche da sindaco, perché mi rendo conto che governare e trovarsi sempre qualcheduno che mette i bastoni fra le ruote può essere, quindi è un principio su cui concordo. Un'altra cosa su Chiavari no, lei dice chiaro, però il tribunale, ma il però, ecco il però è quando si fa un enunciato, un principio generico per cui facciamo una riforma, è giusto mettere mano a questa geografia giudiziaria che da fine 1800 vede molti tribunali. Quando però è stata attuata questa riforma, la legge delega ha previsto dei criteri per scegliere chi si doveva salvare o non si doveva salvare assolutamente un po' strani, tant'è che si dice ma andiamo a salvare tutti i tribunali che sono sede in capoluogo di provincia. Sì. E in un momento in cui si stavano abolendo le province, quindi è stato un provvedimento stradico di per sé. Stia tranquillo, sapevano già che non si sarebbe fatto di abolire le province. E quindi all'interno di questo principio, giusto, per quello che dico, concordo con Severino, adesso con Cancellieri, va messa mano alla riforma, ma la bontà di una riforma la si vede da come viene attuata, non da queste enunciazioni generiche, perché se poi in alcuni casi particolari, concreti ed oggettivi, lo stesso Parlamento ti dice la riforma va bene, pareri Commissione Giustizia, Camera e Senato, sì, 21/7/2012, 1/8/2012, però ci sono situazioni che, ove applicate queste norme, fanno più danno dell'utile che noi andremo allora, a perseguire in questo caso. Sì, però il concetto è sempre questo, non so, Boldrin, lei forse non conoscerà la storia del Tribunale di Chiavari, ma è una storia emblematica di come in Italia l'abbiamo presa, non si riescano a fare cose, riforme strutturali. Ma guardi, il ragionamento che ha fatto il sindaco è fallace a due livelli. Sì. Una anzitutto, la seconda, a lui non piace come la legge viene attuata. La risposta che viene a un cittadino di un paese normale è: peccato, però l'hanno fatta così e le leggi si applicano. Perché uno dei difetti anarchici di questo paese in realtà medievale è che il signore fa la legge e poi tu provi a lobbizzare, insorgere, eccetera, in modo da non farla applicare nel caso faccia quello che tu percepisci come un danno. E questa è la follia. Questa è l'autentica follia, perché questo porta a un paese che non funziona, che non cambia mai. L'altra cosa è che fa proprio i conti sbagliati. Guardi, i 14 milioni per costruire quel tribunale, non so se siano stati spesi bene o male, è irrilevante. Il problema è che sono stati spesi, sono già stati spesi tutti, fine, non ritornano mai più. Che il tribunale venga mantenuto aperto, che quell'edificio venga venduto e utilizzato per qualcosa di socialmente utile, venduto a un privato, non farà cambiare nulla, anzi se lo vendiamo quell'edificio forse recuperiamo parte dei 14 milioni. Quindi il conto che ha fatto lui è proprio sbagliato, ma proprio sbagliato Cioè dice ormai questo. Anzi, se lo teniamo aperto, quel tribunale, dovremmo spendere altri soldi, che è la ragione per cui hanno deciso di chiuderlo, perché ci sono i costi di gestione. Come dicono i buoni anglosassoni, butteremo soldi buoni dietro a soldi cattivi. I soldi cattivi furono i 14 milioni spesi per costruirlo, i soldi buoni sono quelli che spenderemo nel futuro per farlo funzionare. Cioè, dice, visto che ormai 14 milioni li abbiamo buttati, cerchiamo di non buttarne altre. È un ragionamento banale, ci arriva chiunque, quindi il ragionamento, mi dispiace, non regge. Evidentemente il sindaco di Chiavo scoccia perdere questo bel edificio, i posti di lavoro che genererebbe in quella zona, e quindi fa la sua piccola lobby locale per guadagnarci 50 voti insomma, a costo della collettività. Per essere sicuro molto che dura. Mi spiegherà che se chiudono Chiavari lui dovrà andare a 22 km di distanza. Guardi, io vivo in una città americana relativamente piccola, si chiama St. Louis. Nell'area metropolitana di St. Louis di tribunali ce n'è uno in centro a St. Louis. La gente deve farsi anche 30 km per andare in tribunale. Io stesso, da dove vivo, ne faccio 12, quelle due o tre volte che ci sono andato per lavoro. Queste sono appunto follie italiane. Ognuno vuole il suo tribunale, come ognuno vuole il suo aeroporto, come ognuno vuole... Sì, ognuno vuole l'aeroporto, ognuno vuole la sua università, la stazione ferroviaria, col treno che si ferma, è così. Andiamo alle informazioni sul traffico, ma poi siamo ancora con Sergio Rizzo, poi Trossarello replicherà su questo. Allora, prima degli ascoltatori vorrei Sergio Rizzo e poi Trossarello, ripeto, sindaco del comune di Moconesi, che si batte per presidente del comitato Salva il tuo tribunale, in questo caso a Chiavari. Rizzo, hai sentito, Boldrin è stato durissimo a dire, cioè, difende semplicemente un suo edificio che è lì, ormai i soldi sono stati buttati, è stato un errore del passato, non buttiamone altri. Rizzo, che ne pensi? Penso che è un ragionamento che non fa una grinza, come al solito, insomma, le cose che dice Boldrin sono, diciamo, tutte condivisibili per me stamattina, ovviamente, ma invece mi pare molto interessante anche l'accenno che hai fatto tu, cioè il fatto che veramente questo è un paese in cui ognuno vuole il suo piccolo pezzetto di potere, no? Pensa agli aeroporti. Ecco, adesso mi viene in mente che stanno aprendo l'aeroporto dell'Aquila, cioè un paese, che una città che purtroppo è una delle città più belle del mondo, che è ancora a terra, è ancora al centro storico a pezzi, e sta aprendo un aeroporto. Ci diranno che serve, ci spiegheranno che serve. Sì, ma no, ma io non, non, non ho dubbi che un aeroporto all'Aquila possa avere la sua utilità, per carità, magari per quelle 50 persone che lo possono usare, ma insomma è totalmente diseconomico, è evidente questo, no? Cioè l'Italia è un paese che ha un numero di aeroporti doppio rispetto alla Francia in rapporto alla superficie, e già questo fa capire perché non... Le università la stessa cosa. Sì, sì. Noi abbiamo assistito negli ultimi anni a un diluvio di apertura di sedi universitarie, piccolo particolare, la prima università italiana nelle classifiche internazionali come qualità dell'insegnamento è Bologna, che è tipo al 180° posto. Sì, sì, va bene. Quindi, dire, non è che diciamo, aumentando le sedi universitarie tu hai migliorato il livello del servizio. Ma io vorrei dire, Trossarello qui, insomma, l'accusa è chiara, difendere un piccolo pezzo di potere feudale, che piaccia o no, una legge viene fatta e a qualcuno quando viene fatta una legge, qualcuno è scontento, è il cosiddetto interesse generale che prevale sul particolare. Perfetto, io sono stato attentissimo, posso? Certo, certo. Attentissimo alle parole di Sergio Rizzo, soprattutto anche alle parole di Boldrin, alle quali mi permetto di replicare in modo molto semplice. La distinzione tra un investimento in conto capitale e la partita corrente di un bilancio a un sindaco è nota. Quindi quello che volevo dire replicare a Boldrin è questo. In questo momento, oltre a una spesa in conto capitale di 14,2 milioni di euro che verrebbero gettati al vento, ma possiamo anche lasciar perdere, l'abbiamo buttati, come dice lui, sì, lasciamo stare. È in partita corrente che non avremo più risparmio, perché in questo momento il risparmio significa avere 8.000 metri quadri di locali gratuiti. Se invece noi ci spostassimo, in questo caso su Genova, bisognerebbe reperire altre risorse e mettere nuovamente mano al portafoglio. Ma no, si potrebbero affittare, rivendere. Certo, ma perché andare ad affittare dei locali quando adesso li abbiamo gratuitamente? Poi si può far tutto, ma sono queste le incongruenze della legge in particolare. Vabbè, ma perché dice Boldrin, è stato fatto un errore costruire evidentemente quel tribunale? Cioè basta, come si fa a rimediare? Si vende, si affitta, si riutilizza? Lo si utilizza e lo si amplia, lo si utilizza meglio. Io ho una struttura, invece che bruciarla, dico bene, amplio la competenza e sgravo per esempio il Tribunale di Genova che ha operato di lavoro e gliene prendo una parte, questo per replicare brevemente. La seconda replica è questa: non ci sto a far la parte di quello che tutela i localismi, perché questa sarebbe una posizione stupida e non mi reputo stupido, le spiego perché. Questa è una riforma che va a colpire 1.000 uffici giudiziari, sì, 668 giudici di pace, 220 sezioni distaccate e 31 tribunali. Lo stesso Parlamento, cioè non Chiavari, non Tolmezzo, non Pinerolo, non Bassano del Grappa, non Lucera e non Rossano, e sono nomi che si conosce la questione a caso, bensì il Parlamento italiano, ha detto la legge va bene, ma ci sono 6 errori. Nel Parlamento italiano c'è la cosiddetta lobby a cui fa riferimento, per cui tutti in maniera bipartisan stanno cercando di bloccare o di rinviare questa riforma. Scusatemi, lo dico di nuovo da sindaco, ma se un'eccezione è fondata rispetto a un'eccezione che dice 0,65% della riforma errata, è possibile che non ci possa essere il riconoscimento di un errore dello 0,65%? Ha capito Boldrin. La questione qua c'è una questione oggettiva, per cui le ripeto, siamo alle solite, ognuno si rifà la sua legge, c'è l'errore, la legge non va bene, è una cosa tremenda. Cioè, infatti il nostro sindaco sta anche argomentando che la legge stessa che lui vuole contrastare non solo è applicata sbagliata, ma è sbagliata in spirito. Perché? Perché se fosse vero che trasferendo le attività del Tribunale di Chiavari al Tribunale di Genova aumenterebbero i costi, allora avrebbero fatto una legge folle. Va bene, forse ha ragione lui che lo dimostri, ma siamo all'Italia. Siamo lì, esatto. Cioè, la legge è stata fatta. C'è qualcuno che ha deciso che lui ha capito meglio. Questo è un dato di fatto. Questo è un dato di fatto. C'è un governo, il precedente, che ha fatto un decreto legge che poi deve essere convertito in Parlamento. Cioè, è una legge voluta da un governo, da un esecutivo. Non è stato votato, è stato dei tecnici, possiamo metterci quello che volete. Però è stata una legge. Questo è il punto, Trossarello, che è stata. Dice la legge è sbagliata e quindi la contrasto. Però fatemi sentire Paolo da Pavia, ci ha chiamato. Ci ha contattato, so che è un imprenditore, buongiorno, ci ha mandato anche un sms. Paolo, buongiorno. Buongiorno, salve. No, sono un imprenditore, sono responsabile Italia di una corporate statunitense. Sì. E come ci vedono gli americani, per esempio? Perché oggi leggo meno 70% di investimenti. Gli americani sono i più grossi al mondo in concorrenza diretta con un gruppo italiano, quindi non stiamo parlando di cose fuori dal mondo. Io però ho delle direttive dagli Stati Uniti, dove il nostro presidente, società quotata da più di 40 anni a New York, quindi insomma una società stabile, guadagna credo come un nostro parlamentare, di cui la metà a premio, ma quest'anno il premio non l'ha beccato. Perché? Quindi, perché con la crisi, con i problemi che ci sono stati, non è arrivato neanche lui al budget, che noi tutti conosciamo. Il discorso è che noi, cioè io ho delle direttive precise dagli Stati Uniti che mi dicono: in Italia più di tanto non possiamo fare. Perché? Perché noi abbiamo piani di investimento di 5 anni dove i soldi li mettono sul tavolo, non pagano a 60, 90, 2000 giorni come da noi, li mettono sul tavolo e dicono: noi non possiamo investire in un paese. Oh, quindi lei mi conferma. Un attimo, mi lasci dire: dove non sappiamo cosa succede se abbiamo dei problemi. E i problemi non sono dati dalla lobby degli avvocati, sono dati dalla lobby di chi gestisce i tribunali, cioè il CSM, i magistrati, la politica e i dirigenti. Quindi lei dice, in queste condizioni non la stupisce il fatto che oggi si legge sul Sole 24 Ore meno 70% di investimenti degli esteri in Italia? Ma, perché? Ne ha messi fin troppi, ma sai che io, cioè, se facessi le stesse cose che faccio in Italia, le facessi in un qualunque altro paese, cioè avrei girerei Maserati, ma la cambierei tutti i mesi, ma non perché sono un fenomeno, ma perché siamo talmente abituati a dover essere delle bisce, delle anguille nella vita, che in un ambiente normale, ma se hai solo voglia di lavorare, di alzarti la mattina presto e di finire i progetti, ma dai delle piste agli altri, ma Boldrin lo sa, ci lavora negli Stati Uniti, sì. ma ragazzi, ma questi ci stanno prendendo per il culo, ma veramente, e finché la gente, anziché lamentarsi, non si incazza, questi vanno avanti. Incazzarsi vuol dire che le loro teste devono rotolare, metaforicamente, spero. Spero, ma se vanno avanti così anche fisicamente. Va bene Paolo, grazie. Andrei a Bari da Luigi, insomma, poi attenzione sempre a incitare alla ghigliottina. Luigi, buongiorno, devo chiudere con la dica. Buongiorno, grazie. Ma guardi, io sono un avvocato, volevo dare un piccolo contributo alla discussione sui tribunali. Io penso che la legge sia corretta, nel senso che noi, stando sul campo, abbiamo un problema di carattere sostanziale molto serio che investe due quadranti in particolare. Il primo, questa eccessiva legiferazione che in qualche maniera non ci fa dormire la notte. Cioè io ho personale nel mio studio solo per studiare le modifiche che vengono fatte quotidianamente, con questo cambiando continuamente i business plan di tutte le società che assistiamo, che devo dire negli ultimi 3 anni per buona metà sono andate all'estero. Il resto, i tribunali, io inviterei il sindaco di Chiavari, credo di aver capito. Sì, non di Chiavari, di Mocone, sì, però. Di Mocone, di venire a vedere personalmente il resto dei tribunali d'Italia. Io non conosco il suo tribunale. Sono delle strutture scandalose, non c'è alcun tipo di servizio all'utenza. Vabbè, lei dice, quindi è a favore di questa legge. No, la sfumo Luigi, perché è un tema che riaffronteremo, ma purtroppo siamo in chiusura. Ringrazio tutti, Sergio Rizzo, Michele Boldrin e Gabriele Trossarello. Riascoltate tutto su Radio24.it e ci diamo appuntamento a domattina alle 6:30. 24 mattino.